due parole. Buonasera a tutti, grazie per essere qua. Nulla, velocemente, abbiamo organizzato questa sera questo incontro, meglio di Capustella, che non è presente, l'ho organizzato. Saluta e ringraziamo molto per aver contattato tutti voi per essere qua oggi, perché allora sul nostro territorio troviamo molte offerte culturali e tra queste anche quelle che possiamo definire indipendenti, comunque autonome rispetto alle realtà istituzionali. Queste però spesso trovano meno spazio di altre e quindi abbiamo oggi voluto avere un confronto su quello che sono le opinioni dei nostri ospiti per affrontare questo tema che riteniamo sia in generale importante e soprattutto anche con gli avvenimenti delle ultime settimane ancora di più. Quindi ringrazio voi di essere qua e ringrazio anche i nostri ospiti che hanno fatto molto volentieri. Scusate, volevo un rimoto. Allora, beh, e ringrazio la moderatrice Paola Romino per stare con sé. Nicola Castelli, regista e cofondatore dell'Associazione Culturale Spazio 1929, Pietro Martinelli, già consigliere di Stato, Laura Di Corcia, scrittrice e insegnante, e Andrea Fazzioli, scrittore, insegnante e fondatore della Scuola Ianis. Grazie mille. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti, anche da parte mia. Vi rubo due minuti per una breve introduzione perché è uscito proprio pochi giorni fa uno studio presentato dal Dipartimento dell'Economia e delle Finanze e dal DEX, qualcuno l'avrà sentito parlare, ne hanno parlato gli organi di stampa, secondo il quale la cultura in Ticino genera 115 milioni di franchi di valore aggiunto in termini di impatto economico e circa 2100 posti di lavoro, quindi è descritta come una vera e propria industria che funge da motore per il turismo, genera valore per tutto l'indotto. Sicuramente è una buona notizia che ci ricorda quello che abbiamo anche drammaticamente scoperto o capito ancora di più durante la pandemia, cioè che fare arte, letteratura, musica, poesia è per tante persone anche un mestiere, non è soltanto un'esigenza creativa. Quindi indubbiamente una buona notizia, ma anche una notizia o uno studio un po' insidioso, perché il rischio è un po' quello di pensare alla cultura solo in termini produttivi, in termini di prodotto da vendere, quindi l'artista che riempie le sale, le attività culturali che riempiono le serate, magari ai turisti, così vengono più numerosi in Ticino, il film che fa cassetta, l'evento di richiamo, tutte iniziative naturalmente più che apprezzabili, ma che non devono far dimenticare un fattore importante, e non è retorico dirlo, cioè che la cultura prima che le tasche deve riempie la vita, arricchisce personalmente, quindi il valore aggiunto più prezioso, indipendentemente e al di là dell'indotto in termini economici, il valore aggiunto più prezioso è quello in termini esistenziali, formativi, anche civili e sociali, penso, in un territorio. Questo può avvenire quando la scena culturale è libera, è plurale, è fertile, è così, utilizzo questo aggettivo per passare, uscire dalla metafora economica e entrare in una un po' più ecologica. Siamo, diciamo così, stasera parliamo in fondo di un ecosistema culturale che ha bisogno di biodiversità e deve prendersi cura e deve proteggere la propria biodiversità. Lo facciamo, lo diceva Tessa, partendo un po' dallo spunto degli eventi recenti, quindi la demolizione dello stabile dell'ex macello, e forse proprio per questo partirei, gli ospiti li ha già presentati Tessa, quindi Pietro Martinelli, consigliere di Stato, partirei da lei perché in fondo una ventina di anni fa, partiamo un momento appunto con gli eventi attuali e poi allarghiamo il discorso alla cultura alternativa. Lei una ventina di anni fa ha contribuito a trovare una soluzione, una sistemazione per quello che è stato per i Molinari. Oggi si ha un po' l'impressione che sia più difficile trovare una soluzione. Mi chiedo se è un'impressione, forse ci siamo dimenticati che già un paio di decenni fa le difficoltà erano molte, o davvero oggi c'è qualcosa che complica la situazione, che complica la possibilità di avere delle realtà come il Molino? È cambiato qualcosa? È cosa? È cambiato che 20 anni fa la richiesta di un centro sociale autogestito aveva colto un po' di sorpresa il mondo politico comunale, che ha pensato che fosse comunque una richiesta legittima alla quale doveva essere data una risposta. Questo l'ha pensato, penso, sia il Comune che il Cantone, o perlomeno le persone che rappresentavano il Comune e il Cantone in quegli anni. Poi a poco credo che ci si è accorti che c'era una parte importante della cittadinanza che non era molto contenta che a Lugano si insediasse un'attività di questo genere, perché contrastava con quella che era la vocazione un po' di Lugano da vendere, da bere, scusate, non da vendere, ma che è poi la stessa cosa, che aveva portato a Lugano molta ricchezza. Io ricorderò che non solo, la rivendicazione è nata la prima volta nel 1990 dopo una festa al Tassino da parte di un gruppo che si chiamava GAS, gruppo autogestito socioculturale, ed era stata seguita da una manifestazione con più di 2000 persone che erano sfilate in corteo Lugano, per cui appunto, presi un po' di sorprese, l'autorità comunale ha detto ma sì, qui bisogna fare qualcosa, che si era mosso dopo il Consiglio di Stato ha incaricato me, che ero presidente in quell'anno, di occuparmi del problema. Tutte le... tra l'altro c'era Borradori in Consiglio di Stato in quegli anni. Tutte le decisioni prese come Consiglio di Stato sono state prese all'unanimità, io ho sempre riferito punto per punto ai colleghi a quanto si andava facendo e c'è sempre stato un accordo completo al riguardo. Il Cantone si è subito reso conto che il problema non poteva risolverlo lui, perché in ogni caso richiedeva l'adesione del Comune, dove il centro sarebbe stato inserito. Ricordo che la prima occupazione nel 96, quindi 6 anni dopo il 90, fu l'occupazione degli ex Molini Bernasconi il giorno dei campionati del mondo di ciclismo a Lugano, cioè approfittando dal fatto che la polizia era occupata dei campionati del mondo, il GAS ha occupato gli ex Molini Bernasconi, questo perché la polizia, loro avevano fatto in Senato una manifestazione, la polizia li ha accompagnati, ma era la polizia comunale, fino al confine con Viganello. Allora non c'era ancora la Grande Lugano, Viganello era un comune autonomo. E poi lì ha detto, vabbè, adesso non siete più nel comune di Lugano, fate quel cavoletto, e loro sono entrati ai Molini Bernasconi. Dopo si è capito che il problema comunque avrebbe dovuto avere l'adesione di un comune, perché è anche un problema di piano regolatore. Cioè il piano regolatore deve prevedere in quel luogo l'insediamento di un centro di questo tipo. Tant'è vero che quando abbiamo trovato una soluzione al Maglio, e quella l'abbiamo trovata come Cantone, abbiamo subito chiesto come Cantone, al Maglio perché era di proprietà del Cantone, abbiamo subito chiesto come Cantone inoltrato una domanda di costruzione per la modificazione del Maglio da locale pubblico, da ristorante, in centro sociale, e Canobbio ha respinto la nostra domanda dicendo che dovevano sgombrare il Maglio entro il 31 marzo 1999. Una settimana prima che uscissi dal Consiglio di Stato, però i Molinari non uscirono dal Maglio, restarono credo fino al 2002, quando il Cantone decise di cacciarli fuori e lì fu trovata la soluzione dell'ex macello. Ma qui concludo, dicevo che il Comune di Lugano si è occupato, nel frattempo, prima che poi noi, di fronte al fatto che non c'era nessuna possibilità concreta, proponessimo il Maglio, ed era stata proposta la masseria Gervasoni, e poi prima era stato proposto l'ultimo piano della termica, e addirittura sulla masseria Gervasoni sarebbe interessante, Cristina, andare a vedere negli archivi, era stato presentato al municipio in un messaggio ed era stato fatto un rapporto dal Consiglio Comunale. Poi vennero le votazioni e di quel messaggio non si parlò più, il nuovo municipio lo mise da parte, per cui dopo ci fu la soluzione del Maglio provvisoria, come ho detto prima, eccetera, eccetera. Quindi tante vicissitudini anche allora, ma oggi possiamo aspettarci una situazione simile o c'è qualcosa di diverso, forse che rende il tutto più complicato o oggi si può ben sperare? Oggi è diventata una guerra di religione, se vogliamo una guerra culturale, per restare nel tema della nostra riunione. Oltre a questo, non so se l'ho già detto, chi aveva portato avanti questa proposta e preparato il messaggio era il vice sindaco Erasmo Pelli, no? Che si è dato molto da fare all'inizio, però praticamente non è riuscito a concludere niente. Oggi c'è una guerra di religione, dice, questo significa forse anche, lo chiedo anche a voi altri, cioè confrontarsi con una realtà, diciamo, autogestita o con le autogestioni, perché non parliamo soltanto del mulino, con una cultura alternativa vuol dire confrontarsi anche con una spontaneità diversa magari della cultura ufficiale, istituzionale, organizzata dalla città. Questo comporta anche più conflitto, probabilmente più confronto, più disordine, e questo è un bene o un male, è una ricchezza o è un problema? Culturalmente forse è un po' una linfa vitale. Laura Di Corcia, sì, chiedo magari... Sì, io mi ricordo una cosa che è stata detta da Fabio Pusterla quando è stata inaugurata la Casa della Letteratura, dove si facevano dei discorsi, tutti molto giusti, sull'opportunità di aprire questa Casa della Letteratura agli altri, quindi di diventare inclusivi, e tutto molto giusto e condivisibile, però a un certo punto Fabio Pusterla ha detto sì, ma guardate che la letteratura, quindi anche la cultura, deve rimanere qualcosa anche di selvatico. E questa parola mi era piaciuta perché che cosa significa selvatico? Significa non diventare troppo accomodante. Da quando la nostra cultura si basa sulla cultura greca e in Grecia il teatro e anche le discussioni filosofiche servivano per rimettere in discussione i basamenti della società. Quindi la cultura che diventa salotto e mette tutti d'accordo e accarezza perde un po' il suo senso. Cultura in latino, l'etimologia latina significa coltivare, e quindi far crescere una pianta, far crescere nuove cose, e serve anche a chi sembra apparentemente contrario alla cultura, cioè quella parte della popolazione che è restia alla cultura, in realtà serve anche a loro, nel senso che oggi si può parlare, ci si può esprimere perché qualcuno prima ci ha ragionato ed è andato contro qualcun altro che non voleva dare la parola a tutti, per esempio, così, un esempio su tanti. E quindi rimanendo sulla metafora latina della cultura come coltivazione, cioè sull'etimologia latina, se noi la cultura la trasformiamo in salotto accomodante, eccetera, nascono solo piante artificiali alla fine, non c'è nuova linfa. Andrea Fazioli, scrittore ma anche collaboratore giornalista di Rete 2, è un po' forse un osservatorio privilegiato sul territorio dal punto di vista culturale, sulla cultura appunto, diciamo, chiamiamola così, un po' più ufficiale, ma anche quella alternativa, quell'altra, quella che viene un po' dal basso. Allora, secondo te c'è abbastanza spazio pubblico, ma non solo fisico, anche forse nel dibattito, la visibilità che viene data anche a questa conflittualità, al confronto, al disordine che a volte questa cultura altra crea? Sì, credo che innanzitutto lo spazio debba essere dato poi dalle persone all'interno di loro stesse. Bisogna intendersi su che cosa sia la cultura, una cosa che si può produrre, quindi è un'attività come le altre, oppure è qualcosa che invece attiene la sfera dell'essere, quindi qualcosa di cui si ha bisogno. Mi ricordo un testo dello scrittore Giuseppe Pontigia che diceva che lui trovava raccapricciante la definizione produttori di cultura, che dicevo, evocava immagini imbarazzanti, diciamo, e diceva in fondo sì, d'accordo, c'è questa forma esterna della cultura, però se guardiamo al profondo, la cultura non può essere qualcosa di un lusso, ma deve essere una necessità. È chiaro che la letteratura, la musica, l'arte grafica, il cinema sono tutti dei lussi, perché uno può vivere benissimo, felice anche come analfabeta, io questo cerco sempre di ricordarle, no? Però in qualche modo la cultura, che significa creare dei legami con gli altri, significa percepire un vuoto, un'assenza dentro di sé, e tramite dei legami e tramite la condivisione di storie, di immagini, cercare di legarsi agli altri, quella è necessaria. Ecco, forse la questione è semplicemente questa, di riconoscere la cultura come qualcosa di vitale, di necessario. E allora in questo caso non può esserci una guerra di cultura, perché di fatto è un paradosso l'espressione stessa. La cultura è basata proprio nel mettersi dei panni negli altri, nel provare a guardare il mondo con altri occhi. Quindi effettivamente se questo ognuno lo facesse per conto suo, il problema collettivo non si verificherebbe. Il problema è che appunto non è così facile guardare le cose con gli occhi degli altri. Credo che il problema sia prima di tutto personale. Io mi accorgo anch'io della fatica, perché all'inizio forse si potrebbero risolvere molti di questi problemi, a volte lo si dice, con una maggiore tolleranza. Il problema è che la tolleranza è un'arma a doppio taglio, perché certamente è meglio dell'odio e dell'intolleranza. Però tolleranza significa tollerare, non significa conoscere, non significa farsi carico dello sguardo dell'altro. E io ho sempre visto che la tolleranza, quando non è unita a una conoscenza dell'altro, prima o poi si trasforma in odio o nel migliore dei casi in fastidio. Credo che forse anche in questo caso il problema maggiore è la mancanza di conoscenza e di conoscenza reciproca. Non so dare una soluzione, la dico come diagnosi, no? Questo succede anche con le altre culture. L'odio tra culture diverse viene di solito in buona parte dall'ignoranza. E allora il mio sforzo personale è quando parlo con una persona che percepisco come altra, anche percepisco che sia totalmente in disaccordo con me, io cerco di dirmi, però devo entrare nel suo sguardo e devo trovare almeno qualcosa con cui io sia d'accordo. C'è qualcosa per forza di vero in ogni persona, anche nella persona più distante da me, anche una persona che di primo acchito posso considerare spregevole, no? Io non sono d'accordo con quello che dici, ma ti permetto di dirlo. La tolleranza, che pure è una cosa nobile, ma secondo me bisogna andare oltre. Non sono d'accordo con quello che dici, ma adesso tento di mettermi nei tuoi panni, di capirlo, e qualcosa di vero deve esserci. E questa modalità mentale l'abbiamo un po' persa. Ed effettivamente quando si dice un produttore di cultura non può occuparsi di queste cose, perché deve parlare di progetti, piani. Noi che però viviamo di cultura, e noi che abbiamo dedicato la vita alla cultura, al di là della radio, insomma, con mille sacrifici, questo anche Laura lo sappiamo tutti, no? Alla fine dobbiamo essere promotori di questo, far capire che la cultura è vitale per sopravvivere, non è semplicemente qualcosa che arricchisce la vita di una città. Vitale è un termine che avete usato entrambi. Prima di coinvolgere anche te, Nicolò, torno un attimo a lei, Pietro Martinelli, perché Andrea Fazzioli diceva non può esserci guerra di cultura, è un problema personale anche di conoscenza, però lei prima ha usato la parola guerra di religione, forse è un problema personale ma anche un problema politico oggi, appunto questo spazio per una cultura diversa, perché appunto si diceva forse anche una cultura che genera confronto, conflittualità, un po' di disordine rispetto a quella apprezzabilissima anche fatta, organizzata, un po' controllata magari dalla città o dalle autorità. Ma diciamo uno degli aspetti che aveva portato le autorità sia comunali che cantonali all'inizio a credere che il problema andava risolto, a pensare che la richiesta era una richiesta del tutto legittima alla quale doveva essere data una risposta, c'era il fatto che la risposta era stata trovata in 30 città svizzere, grandi e piccole. Per cui si diceva, ma perché dappertutto sì e a Lugano non è possibile? E quindi si era partiti dal fatto che una risposta doveva essere trovata. Dopo, ecco, quello che è la cultura, soprattutto la cultura del territorio, no? Noi parliamo di qual è la cultura del Canton Ticino, la cultura dominante nel Canton Ticino, eccetera, no? Che non, io non so, chiamiamoci guerre, chiamiamoci scontri, chiamiamoci nel migliore delle ipotesi confronti, ma evidentemente si parte immaginando la cultura. Ho cercato di darmi una definizione pensando alla riunione di questa sera, alla parola cultura, e ho trovato, ecco, che la cultura dovrebbe essere non la verità ma la ricerca della verità, quello che produce la ricerca della verità. E evidentemente la ricerca della verità può dare dei risultati diversi, e lì deve esserci il confronto, e per esserci il confronto deve esserci la tolleranza. Se non c'è la tolleranza non c'è confronto, no? Norberto Bobbio diceva, bisogna essere tolleranti con tutto, con tutti, salvo quelli che negano la tolleranza. E probabilmente oggi noi abbiamo una mentalità, una cultura in Ticino che nega la tolleranza. E allora evidentemente la risoluzione del problema, a differenza di quello che si è creduto in un primo tempo, diventa difficile. Vengo a te anche, Nicolò Castelli. Abbiamo letto, dice, presentandoti, che oltre ad essere regista sei anche cofondatore dell'associazione culturale che ha gestito lo spazio 1929. Ripensando a quell'esperienza, sono stati 7 anni intensi, partiti, adesso forse lo dico un po' in modo riduttivo, è partito quasi come uno spazio di co-working fra persone che lavoravano nell'ambito culturale, artistico, è diventato in poco tempo quello uno spazio di riferimento, in fin dei conti, se pensiamo al territorio e alla città di Lugano. Questo fa pensare che c'è sete di spazi di questo tipo, forse c'è anche un desiderio, voglia di partecipare, di avere dei luoghi in cui la cultura indipendente trova il suo palcoscenico, il suo piccolo o grande spazio. Sì, assolutamente, nel senso, secondo me quella che citava Martinelli, questa guerra che è nata, non è nata adesso, non è nata adesso, ma è qualcosa che era soggiacente e che veniva perpetrata da anni, e in tanti hanno cercato di, tra virgolette, combattere negli altri ultimi 10 anni, almeno per quello che è la mia esperienza da quando sono tornato in Ticino dopo i miei studi, creando spazi. Non bisogna, secondo me, giudicare in questo momento la cultura. È sbagliato pensare di cosa è giusto e cosa è sbagliato. Le istituzioni, le autorità, i cittadini non hanno, secondo me, in questo momento, ma non hanno il diritto di dire qual è la cultura buona, qual è quella cattiva. Un errore che viene fatto adesso è iniziare a cercare di dire ma quali sono quelli buoni, quali sono quelli cattivi che fanno cultura. Bisogna creare gli spazi, bisogna creare, a mio modo di vedere, la possibilità alla cultura indipendente, alle persone, in modo molto, molto concreto, alle persone di poter esprimere delle cose che ancora non si conoscono, e lasciare il fatto che queste possano crescere. Bisogna lasciare che queste possano portare delle visioni. Una città che non ha una visione, una città che crede di dover imporre, alla fine è una città che amministra, ma che non si crea un futuro. E quello che noi vediamo è stato una buona, se vogliamo, amministrazione, ma che a un certo punto, come una pentola a vapore, è esplosa, perché amministrare non ha creato una visione, non ha creato un humus per poter portare a un'espressione di un disegno di quello che vogliamo come città del presente e del futuro. Lo spazio 1929 si inseriva in un periodo, quando sono tornato in Ticino, dopo anni fuori, sono tornato, ho deciso di stabilirmi qui perché c'era un humus di persone che tornavano, vogliamo una nuova generazione di persone che avevano potuto godere di questo, facilità di viaggiare, di fare scuole un po' più lontano, di creare e di tornare in Ticino creando del nuovo anche in modo originale per una città che stava diventando grande, stava diventando città. Lugano prima non era ancora forse una vera città, adesso inizia ad esserlo. E quindi c'è stato l'esperienza del Morel, quello della Sonnenstube, quello spazio 129, c'era il centro autogestito che aveva questo importantissimo modo di vedere componente anche politica, politica intesa come di riflessione sulla società stessa, e c'erano altre realtà che stavano nascendo e che volevano esprimersi. E come spazio 129, noi molto concretamente abbiamo detto, noi creiamo uno spazio, poi quello che verrà fatto lo vedremo, si vedrà, non imponiamo una misura, non diciamo cosa è giusto, cosa è sbagliato, all'interno dei, chiaramente di quei limiti imposti anche dal buon senso, non siamo andati a fare, a accettare cose che non sono neanche mai arrivate, richieste assurde, che ne so, di politiche di revisionismo, che ne so, queste cose che non abbiamo mai viste, ma abbiamo sempre lasciato spazio. E secondo me bisogna stare molto attenti quando oggi si pensa alla città del futuro e dire noi vogliamo una visione, la visione non deve essere devo creare il contenuto, la visione deve essere devo dare spazio a far sì che si possano creare i contenuti. Io non devo drogare i miei cittadini con un miliardo di eventi per far sì che siano intrattenuti perché abbiano una bella giornata nel quotidiano. Io devo poter fare sì che questa città possa crescere, possa esprimersi, io come politico, come istituzione, e non parlo solo di quelle comunali, parlo di tutti i livelli, sia a livello di poteri che a livello tra cantone, comune e tutte le altre associazioni che ci sono. Io non devo giudicare, non devo mettermi allo stesso livello, non devo in nessun modo creare i buoni e i cattivi, a mio modo di vedere. Questa è la base per poter creare gli spazi per far sì che una città possa iniziare ad avere un futuro, un disegno che sia degno di una città che si chiama tale. Non distinguere i buoni e i cattivi richiede anche quella predisposizione che diceva anche Andrea, quindi tolleranza certamente, anche la città volontà di conoscenza. La città è qua per tutti, la guerra era stata molto prima, ma spesso non ci si rendeva conto di essere in guerra, ma era anche soggiacente, cioè se io voglio creare un evento devo passare dalla polizia, è la polizia che decide se io posso o non posso avere l'autorizzazione a farmi evento. E già questo è una sorta di piccola guerra, perché deve essere la polizia a decidere se io posso organizzare un mercatino, per dirne uno? Devo pagare per utilizzare il suolo pubblico? E dico, ok, ma devo ricevere un sacco di controllo? Allora ci sono delle ordinanze, delle regole che possono essere rispettate per il bene civile, però devo anche creare come città, come cantone, devo creare anche quello spazio per cui delle espressioni possono esserci, e questo deve essere io proattivo a poterlo fare. E questa piccola guerra c'era già proprio perché alla fine, se tutte queste realtà sono morte, e anche alcune realtà indipendenti che lo erano veramente, come certi luoghi di ritrovo, sono chiusi negli ultimi anni perché forse è mancato poi l'ossigeno per poter creare. Mancando questo ossigeno la gente ha voluto respirare e poi si è arrivati allo scontro esterno che c'è in questo momento. Forse stai dicendo non solo manca qualcosa magari come sostegno, come spazi, ma c'è quasi troppo da un altro lato, c'è un'offerta... Ma in qualche modo sicuramente sì. Interessante, sicuramente utile, che è quella dell'AC, del Teatro Voce, dei festival e quant'altro, però poi diventa difficile per certe realtà sopravvivere. Assolutamente, nessuno vuole dire che quanto la città offre sia sbagliato, brutto, perché sono il primo che gode di andare a Long Lake, di andare all'AC, sono tutte cose molto belle, festival, però bisogna anche... essere consapevoli che la città non è chiamata solo a creare questi momenti, appunto, a intrattenere il pubblico, a intrattenere i turisti. La città è chiamata a creare uno spazio per far sì che altro possa accadere. Quando invece la città ti fa quasi la concorrenza, perché alla fine se vuoi creare, è successo più di una volta, se vuoi creare un evento d'estate, per tirare su anche due soldi per creare il tuo programma, però non puoi perché... Tutte le piazze, tutti i luoghi pubblici, tutti gli spiazzi, tutti il lungolago sono già occupati dalla città per il suo programma, diventa molto difficile. È un discorso che si è fatto anche in modo proattivo con chi organizza questi eventi, che ne è consapevole, ha sempre cercato di più di chiamare le associazioni, di chiamare le persone, però spesso con questa idea chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Chiamo quelli perché so che fanno una cosa fatta bene, ma è fatta bene secondo chi? Allora in questo senso secondo me si è arrivato a un limite per cui c'è chi vuole creare in modo totalmente indipendente e dà il diritto di poterlo fare. Magari Andrea, parlo con te perché tu hai anche questo, cioè quello che diceva Nicolò, ci sono questi spazi che diventano anche dei piccoli o grandi laboratori, penso anche magari per i musicisti che altrove nei grandi spettacoli, nel grande intrattenimento ufficiale non hanno spazio, gli scrittori, gli artisti. Ecco, questi piccoli laboratori hanno anche un'importanza, penso tu hai fondato questa scuola IANES, che è vero, è qualcosa un po' di diverso, però è vero che leggevo sul sito, la descrivi non solo come scuola di scrittura creativa, ma come spazio anche di condivisione, cioè questi piccoli spazi che si creano hanno un ruolo molto importante per sperimentare, per portare avanti, per... Certo, e anche per facilitare gli incontri, ma alla fine parliamo di cultura indipendente, anche perché... dire cultura dipendente suona come un'aberrazione, no? È quasi, sembra quasi una caratteristica che deve per forza avere la cultura, essere indipendente. E per essere indipendente occorre che abbia lo spazio. È vero che io credo che una città debba innanzitutto promuovere l'agevolazione e creare degli spazi per le persone che già fanno qualche cosa. Altrimenti poi è vero che la moltiplicazione degli eventi, si parlava della Lugano da bere, va a finire che si confonde l'evento culturale con l'aperitivo. La differenza tra le due cose è sempre più sottile, e per qualità un buon aperitivo molto meglio di tanti eventi culturali, però resta pur sempre un aperitivo, un momento di intrattenimento. L'evento culturale è qualcosa che vuole veramente portare un cambiamento, portare uno a confrontarsi con gli altri. Ora, uno spazio nel mio piccolo ho creato questa scuola IANES non tanto per insegnare a scrivere, perché alla fine si può aiutare qualcuno che fa l'esperienza della scrittura certamente, ma non è che si insegna a scrivere nella maniera più profonda e più intima, no? Certamente una cosa che mi sono accorto è che non si iscrivevano a questa scuola, non partecipavano ai nostri laboratori persone che volessero diventare scrittori, ma persone che facevano ogni tipo di lavoro, dall'operaio all'impiegato, al bancario, al medico, lavori insomma in ogni settore, dal primario al secondario al terziario, che forse si iscrivevano, partecipavano, come uno partecipa a un laboratorio di fotografia o di modellaggio, no? È sempre sminuente, però in realtà vuol dire cercare una dimensione artistica, la possibilità di uno sguardo artistico nella propria vita. E io ho sempre detto, nessuno di loro magari diventa uno scrittore, forse qualcuno di sì, però diventano dei migliori meccanici, dei migliori medici, dei migliori bancari, dei migliori falegnami. Allora è questo che serve la cultura, no? Aiutarci a diventare un po' meglio quello che siamo. E per quello che dico che alla fine il problema della guerra dei buoni e cattivi è che se si creano tante cose, va a finire che si creano tanti gruppi e ogni manifestazione, ogni modo di guardare la cultura, ogni ricerca della verità conosce se stesso. Forse effettivamente anche qui la città o il settore pubblico può farsi promotore di fare incontrare queste realtà, perché altrimenti una ricerca della verità che non consideri le altre è per forza parziale, è per forza incompleta. Per quello che dico che secondo me la situazione è tale che abbiamo bisogno di qualcosa di più della tolleranza, che è pure nobile. Abbiamo bisogno dell'immedesimazione, abbiamo bisogno di assumere lo sguardo degli altri. E ecco, nel mio laboratorio, che poi alla fine paradossalmente qui in Svizzera ha fatto più fatica, adesso le realtà civili sono in Italia. Questo anche proprio... vuol dire qualcosa però. Sì, forse anche io sono più imbranato a organizzare invece i corrispettivi italiani e quelli che si occupano in Italia sono più abili. Però ecco, l'idea era che proprio era al massimo il confronto fra idee totalmente diverse. A volte nel corso di un laboratorio si dice: ma che cosa unisce queste persone? Una credenza, un'idea della cultura, un credo politico, no, non c'era quasi niente di tutto questo, era semplicemente la voglia di avere uno spazio creativo nella propria vita. Pensando a te, Laura, abbiamo detto prima scrittrice, ma anche poetessa, io soprattutto, sì. Soprattutto poetessa, tra le altre cose ho pubblicato una raccolta che si chiama Epica dello spreco, che cito, in quel caso si parlava dello spreco un po' nel sé, delle proprie competenze in questa realtà, diciamo, di lavoro fluido, di precariato e così via. Però cito la raccolta un po' perché merita di essere letta indubbiamente, ma anche perché la parola spreco mi sembrava interessante in questo momento, in questo dibattito, nel senso ci sono spazi culturali che vengono chiusi, ci sono forse esperienze che rischiano di perdersi, energie che rischiano di disperdersi dal punto di vista culturale. Questo anche lo si può vivere come spreco, non so se condividi il parallelismo e come se ne esce, perché tu hai anche sentivo, insomma, essere di fronte allo spreco può voler dire essere in una strada chiusa, ma anche forse essere di fronte a un bivio. Quindi oggi dove siamo? Ecco. Allora, la raccolta è stata la mia prima raccolta, sono contentissima che sia citata perché è dimenticata, mentre la seconda, insomma, è stata più per quello che una raccolta di poesia può essere, insomma, può avere come successo, come riscontro di successo, è stata più lenta. Io ero uscivo da un periodo in cui, come diceva prima Andrea, avevo fatto tanta fatica, mi sembrava che le mie energie vitali e umane venissero sprecate perché non trovavo uno spazio, appunto, proprio uno spazio dove far valere queste cose. Ed effettivamente poi, appunto, mi piace anche aprire una parentesi che come poeta io sono cresciuta, a parte gli studi universitari, sono cresciuta in spazi alternativi, piuttosto milanesi più che ticinesi, perché chiaramente in Ticino la poesia è seguita, è fatta da pochissime persone, quindi mi trovavo meglio a frequentare questi spazi. E un poeta con cui abbiamo organizzato tantissime cose, eccetera, lui diceva: questa raccolta in realtà ha capito che queste poesie parlavano di me, ma in realtà era un po' un manifesto generazionale, quindi parlavano di una generazione degli anni Ottanta, che appunto ha avuto la possibilità, come diceva prima Nicolò, di fare studi, di formarsi anche all'estero, di fare viaggi, tante belle cose, però poi tante volte trovava un muro da questo mondo degli adulti, quindi una non accoglienza, un non ascolto, una incapacità di essere un po' padri, no? Per citare Recalcati, quindi di passare il testimone, quindi di farsi un po' anche da parte da un certo punto di vista. E quindi effettivamente lo spreco è anche, quando viene fatta questa domanda, ma cosa serve la cultura? È una domanda a cui si deve rispondere con ma cosa serve tutto? Cioè, se ci mettiamo da un'altra ottica, ma tutto a cosa serve? Perché costruiamo questi grattacieli? Perché non serve a niente, alla fine prima o poi spariremo e forse ce ne dimentichiamo. Quindi lo spreco è anche l'ozium, la cultura, per tornare sempre ai latini, ma perché loro hanno posto veramente le basi della discussione, era l'ozium, c'era il momento del negozio, quindi gli affari, poi si tornava a casa, ci si cambiava d'abito, come spiega Machiavelli in una bellissima lettera, e si entrava in uno spazio diverso, che a volte è anche solitario. Ecco. Per parlare di questo proliferare di eventi, c'è Goffredo Fofi, ha scritto un libro, cito il titolo ma non sono sicura che il titolo sia giusto, Contro la cultura, perché lui diceva in fondo la cultura, di cultura ce n'è anche troppa, cioè di eventi, ma è tutto e crea anche tantissimo indotto, cioè, negli ultimi anni sia in Ticino che nella vicina Italia è stato un proliferare di eventi, festival, dice, diciamo, ma le persone passano il tempo a leggere libri, poi però chiudono le librerie, le biblioteche sono poco frequentate, chiudono i dipartimenti di italianistica, allora ma che cosa sta succedendo? Si sta trasformando la cultura in merce da vendere, questo è l'esatto opposto di cosa dovrebbe essere la cultura, non dovrebbe essere l'intrattenimento, l'aperitivo, la cultura è anche quella cosa che ti pone di fronte ai tuoi limiti. Prima appunto Andrea ha parlato molto bene del tema della tolleranza, dell'immedesimarsi negli altri, penso che uno degli autori che abbia compiuto il maggiore sforzo in questo senso è proprio Dante, che fa questo viaggio nell'inferno, e anche un immedesimarsi dentro se stessi, perché alla fine dentro di noi ci sono delle parti che sono assolutamente sconosciute, assolutamente aliene, non sappiamo perché facciamo delle cose, non sappiamo perché pensiamo delle cose, questa cosa ci spaventa, e quindi quando l'altro ci richiama questo estraneo che c'è dentro di noi, chiaramente ci chiudiamo, eccetera. Quindi la cultura dovrebbe servire proprio a fare un ragionamento in questo senso, superarlo a qualcosa di ancora un passo successivo utopico, però sicuramente a porci di fronte a delle parti che non conosciamo di noi stessi e a superare un po' la paura verso queste parti. Quello che dite richiama molto l'idea del dialogo, che oggi è un tema anche nell'attualità, e quindi magari prima di passare alle vostre domande, se ne avete, farei un ultimo giro pensando proprio all'oggi. Parto da lei, Pietro Martinelli, c'è un suggerimento, un punto da cui ripartire, tenendo conto di quello che è stato detto, empatia, medesimazione, tolleranza, però si sono usate anche parole come guerra, come demolizione, abbiamo sentito partendo dall'evento da cui prendiamo spunto oggi. Da dove possiamo ripartire? Partirei dal suo intervento iniziale, quando ho detto la considerazione che la cultura produce 120 milioni di PIL, in Ticino, e dà lavoro 2.110 persone, è una considerazione estremamente pericolosa. Perché io credo che la cultura produca molto di più di quei 120 milioni, perché è cultura tutta la ricerca, è cultura tutte le nuove sfide che si fanno, eccetera, e in più il prodotto della cultura non lo si misura in franchi, in ogni caso, ma in futuro che viene aperto, le prospettive future che vengono aperte al paese, no? Ecco, da questo punto di vista, tra me e i miei interlocutori, credo che ci sono 50 anni più o meno di differenza, che non sono pochi, e mi fa molto piacere sentire dopo tutto in loro questa fiducia, questa voglia di combattere, questa apertura che hanno nei confronti del futuro, perché bisogna rendersi conto che in Ticino ci sono stati degli importantissimi cambiamenti proprio a livello materiale, che hanno fatto scadere il concetto di cultura, ma il concetto di cultura proprio nel senso che le persone pensassero, che scambiassero tra di loro le cose di cui pensavano e che con questo costruissero il futuro, si proiettassero verso il futuro. Se io penso che questa casa, così mi hanno detto, è stata abitata da Carlo Cattaneo per 20 anni, e cosa rappresentava Carlo Cattaneo, cosa ha rappresentato Carlo Cattaneo per la cultura di questo cantone, cosa ha rappresentato il risorgimento italiano per l'apertura alla cultura di questo cantone, e come oggi invece ci siamo chiusi verso l'esterno. Come oggi appariamo una regione non accogliente, e non a caso la nostra popolazione diminuisce, perché tante volte gli stranieri vengono sbattuti fuori, se non hanno i soldi comunque vengono sbattuti fuori, e a volte vengono anche sbattuti fuori se hanno i soldi, perché magari si teme che fanno concorrenza a prima i nostri, eccetera eccetera, no? E questo cambiamento, cos'è stato tutto la fine 800 ticinese, l'inizio 900, cosa sono state anche gli anni dell'immediato dopoguerra, come apertura in Ticino, e cos'è il Ticino oggi? Beh, io credo che il grosso cambiamento è avvenuto per il fatto che a un certo punto ci si è accorti che il Ticino era una miniera d'oro. Era una miniera d'oro per gli impianti idroelettrici, quindi per la nostra risorsa naturale che erano le acque che è stata patteggiata, non dico venduta, ma patteggiata con le Pannerwerke, era una miniera d'oro per la vicinanza con l'Italia, le incertezze dell'Italia e il desiderio degli italiani ricchi di portare qui i loro soldi, era una miniera d'oro per le sue bellezze naturali, che un po' sono state distrutte, ma comunque molto si è conservato, che hanno fatto sì, aumentando la ricchezza globale, che a un certo punto i valori dei terreni a Lugano, qui dove stiamo noi, eccetera, sono aumentati non di 10, ma di 100 volte. Quello che prima costava 60-100 franchi al metro quadro, ne costa 6.000-10.000 al metro quadro, e quindi aumentati di 100 volte. E voi capite che questo improvvisamente scoprire che il Ticino era una miniera d'oro ha creato degli appetiti, era inevitabile, e ha creato degli appetiti che tramite la politica si sono riversati sulla cultura. Leggo solo 5 righe di Patopolis di Tita Carloni, dove dice, lui apparteneva a un partito storico del cantone, e dice: infine l'adesione appassionata al socialismo dopo un'incredibile riunione domenicale a Velle, dopo un'incredibile riunione domenicale a Bellinzona, nella quale Alberto Stefani aveva radunato un certo numero di intellettuali di origine conservatrice in onore di dissidenza, e rivolgendosi loro con l'epiteto di cavalieri erranti, aveva detto pressa poco: nella cultura fate quello che volete, ma nella politica non uscite per favore dal seminato. Il discorso era chiarissimo, no? Ecco, quelli del mulino, gli autogestiti, escono dal seminato. Castelli, ci siamo concentrati sulla miniera d'oro Ticino con queste modalità e abbiamo dimenticato la cultura? No, abbiamo trovato che la cultura andava addomesticata. Abbiamo addomesticato. Non dimenticata, giusto. Andava addomesticata, che è un altro discorso. Perché non addomesticava, creava dei fastidi. Ma io sposo quanto detto da signor Martinelli. Prova ne è che questo studio che hai citato all'inizio, io l'ho letto, l'ho citato settimana scorsa, e dice l'impatto economico della cultura. Poi lo si legge, e in verità sono stati analizzati solo eventi culturali. Solo eventi culturali. Certo. E già il titolo dovrebbe essere l'impatto economico degli eventi culturali. Dei concerti, dei festival, del festival di Locarno, dell'AC, dell'OSI, queste cose qua. Della creazione, ma la produzione, questo ho detto prima, della creazione non c'è traccia. Noi tutti lavoriamo nella creazione culturale, sappiamo che la creazione culturale ha un impatto sociale, economico, politico, basilare, e il fatto che l'istituzione dominante, il cantone, abbia commissionato uno studio sull'impatto economico e abbia dimenticato, questo è un esempio, ma mi potrei stare con un'ora a fare esempio, abbia dimenticato la creazione, che è quella che crea quell'humus, che è quella che crea il futuro, è emblematico per capire che se vogliamo ripartire, vogliamo partire, vogliamo iniziare a fare un discorso, dobbiamo ritornare proprio back to square one, come dicono, cioè dobbiamo tornare allo stato zero e capire che se si confonde l'evento culturale con la cultura, l'evento culturale ci sta, è importante, io non ho nulla contro il Festival di Locarno e contro l'Osi che suona Brahms o Mozart, ma voglio avere l'istituzione, quando viene una politica, che capisce che la creazione di un nuovo disco che viene definito tutte le domeniche rumore è la base culturale da cui partire. E per tornare alla tua domanda di poco fa, da dove si deve ripartire la parola dialogo? Come si fa a fare il dialogo con un'amministrazione, un'istituzione che firma i primi tre firmatari di iniziative come Adesso Basta, che annientano il discorso culturale? Il sindaco di Lugano ha firmato adesso basta, e sta lì bello il manifesto. Come si fa a dire dialoghiamo con qualcuno che non vuole, che non ammette l'altro? Allora, a mio modo di vedere, la palla ora in questo momento è in mano alle istituzioni che devono ammettere l'altro, ammettere di aver sbagliato, ammettere di aver creato con 30 anni di cultura scritta con la K e con la S scritta a forma di dollaro, perché si è creato un humus di non accettazione di qualcosa che non può essere messo in discussione. Un'iniziativa come Andrea Sbasta non può venire accettata per il suo principio. Allora, questa è la base, secondo me, su cui si può ripartire. Senza questa missione, senza questo ritorno alla base, questo, anche la missione di colpa, è difficile creare. Allora si creerà quella lotta. E quindi, quello che si diceva, che alcuni elementi agiscono secondo quello che non sono le regole imposte, lo faranno perché è l'unico modo per potersi esprimere. E ci saranno i cavalli troico, lo faranno in piazza, e poi ci sono tutti gli altri che si aggregano perché hanno bisogno di esprimersi. Quindi ci sarà questa cosa. È meglio farla con una missione di spazio dove la cultura deve potersi esprimere, e come detto, senza una decisione dall'alto di cosa mi va bene e cosa non mi va bene, per questo è sbagliato. Andrea, vengo a te su questo tema, cosa serve oggi? Sei d'accordo con chi ha parlato prima di te o hai una posizione diversa? Sì, sono d'accordo in particolar modo per alcune cose. Prima di tutto l'angoscia che provoca il proliferare di eventi di fronte a un diminuire fattuale della vera cultura e la mancanza di accoglienza. Prima mi sono dimenticato di parlarne, anche perché ormai sembra scontato, no? Però effettivamente, dal mio punto di vista, uno dei grandi cambiamenti che sono avvenuti in questo paese in questi anni è proprio questo, una sempre ridotta mancanza di accoglienza, tant'è che si rischia quasi di farsi contagiare da questa cosa, no? E di porla appunto sulla dinamica di guerra e di battaglia, perché noi stessi, invece no, cioè secondo me bisogna continuare ad accogliere anche chi manca di accoglienza, però nello stesso tempo bisogna denunciare la cosa, perché effettivamente da quella mancanza di accoglienza dell'altro, dalla mancanza di accoglienza nei confronti degli stranieri, che è percepibile e misurabile, derivano, non può che derivare anche una mancanza di accoglienza della cultura. E in fondo io ho voluto in qualche mio romanzo parlare al contrario dell'esperienza di accoglienza, perché dico, è vero che istituzionalmente è vero che ci sono dei movimenti anche di popolo purtroppo non accoglienti, anzi contro l'accoglienza, resta pur sempre anche un'esperienza di accoglienza che si misura anche nelle piccole cose, nelle piccole realtà. Io avevo scritto questa raccolta di racconti in commissario da Badante, in cui mi ero divertito a immaginare due persone completamente diverse l'una dall'altra, quindi un anziano, molto anziano, commissario di polizia, ex commissario in pensione, svizzero, benestante, laico, non più autosufficiente, che deve assumere questa badante, che invece è una donna tunisina, musulmana, e dico, proprio punti di vista diversi, no? E facciamoli coabitare. Naturalmente tutto sembrerebbe, cioè, tutto diverge fra di loro. Io ho voluto raccontare un'esperienza di incontro e di convivenza nonostante tutto. E a un certo punto mi sono chiesto cosa hanno in comune con me. Perché alla fine ho creato, non essendo io né una badante tunisina, né tanto meno un commissario di polizia, mi sono detto, beh, sicuramente la solitudine. Entrambi all'inizio erano persone sole. E anch'io a volte, guardando questi rapporti, no, indotto dalla cultura, poi dico, io non lo dico come la mentela, è anche una mia scelta, è normale che sia così, poi si fa fatica a sbarcare l'orario. E allora dico, vabbè, tutti sti soldi, non è che si pretende che... Però ho l'impressione a volte di sentirmi solo, perché la mia volontà di esprimermi con la cultura, di vivere anche della cultura, è vista quasi sempre, non dico neanche con disprezzo, con malcelata ironia, che è quasi peggio. E non solo la mia, parlo di me, ma la maggior parte delle persone che conosco. E spesso io, nella mia attività di persona che cerca di esprimersi, cerca di vivere con le parole, sento questa solitudine. Beh, è vero, la radio, tu mi hai chiesto all'inizio, no? Si parla di attualità culturale. E lì, anche in quel caso, c'è un approccio giornalistico. A me sembra un paradosso attualità culturale, perché la cultura non è attualità, deve essere presenza, cioè deve essere qualcosa che travalica l'attualità. E faccio fatica anche con il concetto di autorità culturale, forse sono difficile io, però spesso, ecco, per me il sentimento della solitudine in questi ultimi anni è prevalente. chiedo io cosa ci sarebbe bisogno oggi, aiutare le persone a essere meno soli nel loro muoversi all'interno del campo culturale. In fondo anche una serata come questa, per me, magari lo dico egoisticamente, non ho opinioni di convincere gli altri, poi magari siamo anche della stessa opinione. Innanzitutto è comunque essere con degli altri, portarsi in faccia a parlare e medica in un certo modo la solitudine. Mi viene in mente forse Wixer che diceva sono fortunati gli svizzeri perché comunque vadano, trovano posti più, paesi più accoglienti del proprio. Laura, prima appunto di passare alle vostre domande, cosa fare adesso? Qualche proposta, qualche riflessione diciamo conclusiva per questo fin qui? Ma io penso, tornerei sul concetto di indipendenza della cultura. La cultura è indipendente e dipendente, perché appunto abbiamo visto che provare a fare la propria strada da soli non funziona. Io stessa appunto nel mio percorso ho avuto bisogno di confronto con altri poeti, ho avuto bisogno di sostegno, nessuno di noi è indipendente, la cultura ha anche bisogno di fondi, ha anche bisogno di spazi, di mettersi a confronto anche con la realtà materiale delle cose. E questo però è un pericolo, perché chiaramente la committenza, che può essere privata o pubblica, può diventare ricattatoria. Quindi io ti do i fondi, però tu non mi metti in discussione. Quindi da un certo punto di vista, quando arrivano gli spettacoli che, per parlare di teatro, parlano contro la politica italiana, tutti che ridono belli sollevati, però poi ci vogliono anche gli spettacoli che parlano contro. Quindi se un municipio butta giù il Molino, ci vogliono degli intellettuali locali sul territorio che denunciano questo atto di violenza, e questo ovviamente non piace. Quindi secondo me questo fatto che ci ha lasciato perplessi e anche un po' scioccati, ne parlo per me ma penso di poter parlare a nome di molte persone, ha portato alla luce in realtà delle verità un po' nascoste, cioè dove in fondo questo scambio di io ti do i fondi significa un po' ricattare. Ecco, e questo dovremmo cercare di evitarlo, non so bene come, tutelando chiaramente i soldi devono essere pubblici da un certo punto di vista, perché però anche il pubblico deve essere tutelato, cioè non deve diventare ricattatorio, perché altrimenti chiaramente zittisce, mette il bavaglio, e questo non porta da nessuna parte, proprio perché mi ricordo tra l'altro un'intervista che feci a Finzi Pasca, dove diceva noi in fondo siamo un gruppo e nel gruppo si creano delle dinamiche di capro espiatorio e noi dobbiamo cercare di sorvegliarle, cioè le cose se le lasciamo andare certe volte prendono una piega di violenza, di intolleranza, e quindi bisogna sempre sorvegliare. Quindi quello che vorrei è proprio che dopo questo episodio si maturasse quella consapevolezza di sorvegliare queste derive e di cercare di evitarle, magari di prevenirle, ecco, in qualche modo. Lascerei magari un attimo la parola a voi se avete qualche domanda. Maurizio. Ci darei intervenire subito. Ho sentito tante cose molto belle che mi sono piaciute. Penso quanto sia importante, non so, un po' provare a uscire dal seminato, trasformare magari gli eventi in cultura, non eventi culturali, anche questo è un evento culturale, magari potremmo riuscire a trasformarlo in un momento di cultura. Il conoscere l'altro, quanto sentire, ascoltare l'altro, quanto è importante, il tema del selvatico. Allora vorrei farvi una piccola proposta, se volete. Ci mettiamo in cerchio, spostate le sedie e ci mettiamo in cerchio e facciamo una piccola esperienza culturale, se vi va, Visto che siamo in pochi, è possibile farlo. Io chiaramente anche io mi sento molto in difficoltà a vivere in questo mondo e credo che in questi ultimi anni mi sono chiuso un po' nel mio piccolo mondo degli spazi individuali. E quello che è successo a Molino, una cosa terribile, ma ha sollevato qualcosa di molto bello. Io non ho mai sentito Lugano così mia come in questi giorni, nelle manifestazioni, negli incontri che ci sono stati. Si sta creando qualcosa di molto importante. Prima si parlava della biodiversità, la biodiversità sappiamo che è importante perché ha vinto tanti elementi diversi in situazioni di mancanza di equilibrio. Scusate se tremo, ma con il morbo di Parkinson riesco, in queste situazioni riesco con difficoltà a controllare. Biodiversità. Cosa? Dicevi la biodiversità. La biodiversità. Quindi quanto è importante avere tanti elementi diversi. E ascoltare, cercare di conoscere queste cose diverse, magari non sono cose nostre, ma tanto è importante conoscerle. Ecco, il cerchio è uno dei modi che i mulinari praticano quando fanno le loro sedie, che sono delle cose un po' strane, no? Però c'è un discorso profondo, molto importante. Qui siamo, non c'è qualcuno di fronte che noi stiamo ascoltando, siamo tutti alla pari, è un incontro orizzontale e non verticale. E anche questo è un'esperienza che sarebbe interessante vivere. Quando noi facciamo le riunioni, perché non riflettiamo già su questo colpo, su questa questione? Vogliamo coinvolgere le persone, la gente? Cominciamo a pensare, ma che spazio vogliamo dare? Ecco, questo è uno spazio che permette alle persone di dialogare senza avere qualcuno che gestisce o decidere che cosa dire. È molto più uno spazio aperto. Ora vediamo un po' se come vi sentite e se riuscite a così magari a dire anche qualcosa in più. Ecco, forse questa è la cosa più importante, poi ci sono altri elementi che mi sembra interessante, così che mi piacerebbe anche segnalare. Io mi ricordo, forse non so se il primo o il secondo anno che c'è stato Estival Jazz. Non so se qualcuno di voi era in piazza. Ma a un certo punto a mezzanotte dovevano chiudere perché il permesso era fermo a mezzanotte e mezza. C'era Jackie Marti che chiedeva al poliziotto che si affacciava alla finestra del municipio, ma possiamo fare ancora una canzone? Ed era un momento molto bello, la piazza che gridava, che voleva il bis e il poliziotto che faceva segno veramente di no. Bel momento che a me è piaciuto vivere questa esperienza culturale. Poi io da 15 anni forse che non parlo più di Estival Jazz perché è diventato il salotto di Lugano e decisamente è una cosa che non mi interessa. Oppure un'altra esperienza sono andato anch'io alle proposte culturali di Lugano. La settimana scorsa sono andato a sentire un teatro alla Foce e l'anno in quattro. Un bellissimo teatro, un tema legato alle difficoltà adolescenziali, eravamo in quattro però. Ecco, l'esempio di una città che propone anche delle cose belle, interessanti, però sono puramente un consumo e perdono valore. Sarebbe interessante che una città invece sostenesse quei gruppi che sentono questo problema e che manco vogliono affrontare con. Mi fermo qui perché sennò. Beh, forse potevi intervenire subito, potevamo fare dall'inizio la discussione in questo cerchio che trovo sia molto bello. Non so se avete una reazione rispetto a quanto è stato detto, forse anche, penso Laura, sia che giornalista e critica teatrale, non l'abbiamo detto prima, è vero che ci sono delle proposte interessanti, sì. Tante volte, è vero che forse manca comunque anche ogni tanto una partecipazione o uno stimolo. Io sono anche poeta, quando ci sono 10 persone è già un successone certe volte, quindi il teatro mi sembra veramente molto seguito nonostante non lo sia. Certo, 4 persone è un po' deprimente. A volte anche lì si seguono delle mode, dei nomi più blasonati e poi ci sono delle proposte più interessanti che magari io stessa ignoro e sbaglio. Sfuggono. Anche perché c'è tanto, c'è troppo, non si è sempre. Io durante il lockdown ero quasi sollevata di non dover seguire tutte queste cose, non ce la facevo più, avevo bisogno di una pausa e per quanto sia stata terribile come pausa, secondo me ci è anche servita. Sarebbe stato meglio farla senza i morti e i feriti, insomma. Forse quello era anche un momento dove si ritrovava quella solitudine verso la conoscenza culturale di cui parlavi tu, è vero che trovarla magari in un altro contesto sarebbe indubbiamente meglio. Non so se ci sono... Volevo solo dire una cosa geometrica. È vero che comunque, sempre parlando della solitudine, in effetti la forma del cerchio è qualcosa di... che fa sì che uno si senta comunque parte e che non ci sia nessuna divisione. È una questione di attesa. Quando sei seduto in cerchio ti aspetti qualcosa. Mentre quando sei nel pubblico fra gli oratori non per forza c'è questa estensione, mentre da un cerchio sembra che da un momento all'altro qualcosa debba scaturire. Forse i cerchi generano attesa. E anche un'osservazione un po' così, però. E una certa compartecipazione, perché è vero che così siamo simmetrici in un certo senso, non noi e loro, nel senso chi parla e chi ascolta. Sì, è una questione di esserci, secondo me. No? Noi sì. A volte giriamo con addosso una corazza, normale tutti ce l'abbiamo. Io credo anche una questione di timidezza, eccetera. No? Poi ogni tanto c'è qualcosa che ti colpisce e tu dici, ah, mi ha colpito perché è una cosa speciale. Ma spesso invece no, cioè mi ha colpito perché in quel momento lì sono stato ricettivo. Ed è una cosa che succede magari tutti i giorni, solo che io non ci sono tutti i giorni. È il problema di esserci. Ecco la cultura, ma il lavoro culturale, anche quello che uno fa a casa sua, perché uno legge, ascolta la musica, cioè ripensa, anche se uno va a un evento, ripensa a quello che ha sentito. Secondo me è l'aiuto a esserci, in maniera che le cose che comunque viviamo ogni giorno ci trovino pronti. Perché non si tratta che succeda qualcosa di particolare, di grande, no? Solo che quando succede noi non siamo lì. Grazie. Posso rispondere velocemente alla cosa delle quattro certo. persone? Delle quattro persone. Io vedo anche quello che faccio, nei film che faccio, sempre di più si torna alla discussione della cultura uguale evento. Cioè, le persone vanno perché si è sdoganata negli anni l'idea di evento, il place to be, il posto dove devo essere. L'evento ha necessità e funziona solo se appunto l'evento culturale se è un evento. E molto spesso le cose sono diventate appunto degli eventi dove si va perché ci si deve andare, perché tutti vanno lì e allora vado anche io. E non è più una sorta di curiosità e non voglio demonizzare nessuno, non è colpa di chi non ci va, ma io penso che se torniamo al punto di partenza, qual è lo spazio per la cultura indipendente nei confronti delle istituzioni, di chi è chiamato anche a sostenerlo, non deve essere quello il problema, non deve esserci un richiamo. Voglio qualche cosa per la città, per uno sguardo futuro o non lo voglio? Se ci vanno quattro persone non è grave, a mio modo di vedere, se la produzione, chiamo la creazione è credibile, è fatta con i crismi, se le persone che ci hanno lavorato sono state pagate, comunque sono state o non sono state pagate, ma perché c'è un'idea dietro di creare qualche cosa dal basso, ma che ha tutti i crismi per essere una produzione culturale, sì o no, appunto. Non ci deve essere l'analisi per capire se quello che faccio porta X turisti, sì o no, o riempie X alberghi, sì o no, perché se no non è una cosa che merita la mia attenzione. E secondo me dobbiamo in generale fare un lavoro per riportare la cultura là in quel posto dove è una necessità, è una cosa che, di cui abbiamo bisogno per disegnare la città del futuro e che va al di là dell'evento, del momento di esserci e avere l'aperitivo alla fine della cosa per dire di esserci stati. Che poi appunto se pensiamo evento, da un punto di vista filosofico l'evento è dove succede qualcosa, invece molto spesso non succede niente, appunto, quindi non sono veramente eventi, fossero degli eventi, e quindi può esserci l'evento anche con quattro persone, invece non succedere niente con mille persone nel pubblico, quando non succede. Qui è successo l'evento, ecco. Bisogna ammettere che questo mettersi in cerchio ha anche una sua componente emozionale, non so da dove deriva, ma si ha l'impressione di essere tra amici. Non so se c'è qualche altro intervento, se no forse... Io ho una domanda, sì. Magari. Adesso me lo chiedevo adesso, no? Si parlava della città di Lugano, di quello che può fare, eccetera, e improvvisamente mi sono reso conto che io sono di Bellinzona. non vorrei aver parlato, nel senso che io davo per scontato che comunque di certo i limiti di quello che la città di Lugano può fare sono evidenti e forse anche il pensare per città a volte è proprio il limite, me lo chiedevo, nel senso che ho comunque parlato di ciò che può fare le istituzioni pubbliche e non ho mai pensato che però stavo parlando di una città che non era la mia. Non so se è una distrazione mia oppure se il problema magari è... Dopo capisco che bisogna anche andare sul piccolo. La cosa che mi chiedo è se è un aiuto pensare per città e se pensando più in grande ci si perde o se invece diventa un'ennesima settorializzazione. Non ho una risposta, mi è venuta così come domanda. In realtà parliamo di territorio, il territorio è un concetto che ha frontiere più... non ha frontiere, insomma, definite come forse se si allarga troppo si perde magari il contatto, non lo so, non lo rivolgo come domanda perché ho avuto questo ricordo improvviso. Rispondo solo brevemente nel modo di vedere, è molto importante pensare anche alla città, per ritornare a quanto si è Martina detto all'inizio, ma anche proprio la città ha la possibilità in modo concreto, molto concreto, di accettare o non accettare un cambiamento di destinazione di un luogo. L'ammettere o non ammettere con un'ordinanza se la polizia che deve decidere se fare o non fare un evento, cioè sono tutte cose, sono tantissime, che già solo queste contribuiscono a questo discorso e queste sono cose che sono spesso a mano una città. Quindi già partendo dalla città si può creare un discorso proattivo per ammettere o non ammettere la creazione o non la creazione. Poi è ovvio che questa cosa pensavo da fatta su tutti, questo discorso l'ha fatto anche per sugli altri. Diceva anche Pietro Martinelli, come anche nella questione da cui prende origine la conversazione, la spinta del cantone abbia provocato qualcosa. Insomma. Sì, cioè quando la politica delega alla polizia le decisioni è sempre molto pericoloso. Ma no, io ho un senso di frustrazione, scusate. È troppo doloroso. Io sono convinta che 20 anni di leghismo, sia a livello cantonale che a livello comunale, sono passati nella politica giovanile, perché non abbiamo parlato di cultura, conoscenza, creatività, spazi, eccetera. Ci sono delle cose che purtroppo sono passate nei giovani. Sapete che io sono chiaramente, non posso raccontare tutte le parti, ma la maggioranza della popolazione è contenta di quello che è avvenuto, perché noi ci vediamo sempre fra di noi, ma io sono sempre assieme agli altri. Ma guardate, la maggioranza della gente, io sono terrorizzata da questa iniziativa adesso, basta. Perché se si va a votare, se riesce e si va a votare, passa. Perché siamo in un cantone che è diventato così. Non solo i leghisti, ma anche gli altri sono diventati così. I ragazzi giovani sono diventati così. E io non so che cosa si può fare. Ovviamente la conclusione l'hai detta tu, la lotta come volontà d'espressione. Ma alla fine, secondo me, non è quello che fa. Perché continuiamo a dire, io vedo i miei colleghi, continuo a parlare di dialogo. Ma è la parola dialogo, ma non vogliono dialogare in realtà, perché questa volontà di conoscersi non c'è. Quindi non so sinceramente che cosa si può fare in questo momento. Col cantone non funziona, non ci sono più le figure che c'erano a quei tempi, no? E con la città niente meno. È veramente, cioè, è difficile, cioè, perché bisogna aprire una discussione vera, oppure bisogna anche accettare che alcune persone che potrebbero intavolare una discussione vera, gli si dà la possibilità di farlo. Io oggi questo non lo vedo, non so quanto tempo debba ancora passare, ma sono estremamente negativa su questo, perché nonostante la ferita, cioè mi sembra che sia un crepaccio che si sta aprendo, questa città spaccata, dove però la maggioranza sta dall'altra parte. E questo è veramente preoccupante, perché questa chiusura, mancanza d'apertura, eccetera, eccetera, comunque, perché nelle parole, nei fatti, ad esempio, la politica giovanile è sempre sollevata diverse volte, ma non bastano due centri giovanili che vanno bene per i ragazzini e adolescenti, bisogna avere più spazi liberi, che potrebbe essere, oltre l'ex macello, anche altri luoghi, ma non si riesce a dire dai, mettiamoci assieme e facciamo qualcosa, non si riesce. Io sono molto pessimista, sono 8 anni che sono nel municipio, riesco a fare piccoli progetti, anche belli, ma su questa cosa qui, ecco, su creare la cultura in modo libero, eccetera, eccetera, c'è sempre gente che reclama, l'ex muore, ma abbiamo passato decine di settimane a discutere dei problemi di ordine pubblico, delle persone che abitano attorno a noi, che reclamano. Questo è il municipio, no? Quello faccello l'ha ricevuto per cara grazia, perché secondo me Giorgio Giudici nel suo retropensiero pensava che quel posto lì comunque non sarebbe rimasto, sarebbe stato spazzato via anche quello come anche questo. Mentre ora adesso che quello è soggetto a produzione, però io ho l'impressione, non so come l'hai vissuta tu Pietro, ma io ho l'impressione che alla fine è stato dato questo posto, perché tanto con questo posto prima o poi, perché io ho ritrovato nella cronologia del municipio migliaia di proposte, no, di cosa fare del macello, ma non sono mai arrivati una, no? Ecco. E purtroppo poi tutto l'escalation è sempre stata costante, sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio, e adesso siamo arrivati qui. Ma se lo leggi nella cronologia di tutti gli avvenimenti, cioè è una città che non vuole spazi di discussione. E poi il problema è che l'autogestione, noi stiamo parlando di cultura alternativa, viene spesso etichettata l'autogestione come cultura di sinistra. In questa città la sinistra non può esistere, punto. Cioè, nel senso che è così. È una città di destra lontana. Le altre città sono quasi tutte governate da municipi dove magari ci sono almeno 2 o 3 persone che possono parlarsi su questo tema. Lugano no. Pietro Martinelli. Dicevo, questo municipio con queste, dopo qui la discussione, le considerazioni diventano troppo politiche, non siamo partiti su questa base, ma per sapere come finirà la storia bisogna aspettare il giudizio della magistratura che può anche influenzare l'opinione pubblica. La paura che ci mette troppo tempo, cercando di far sì che ci si dimentichi delle cose, però nel momento in cui arrivano dovranno pur dare delle risposte a degli interrogativi inquietanti, e sono tanti. Poi c'è il discorso delle operazioni che sta portando avanti Lugano, quella dell'aeroporto, ma anche quella del PSE, nella forma come è stata presentata, il risultato del referendum. Questo municipio può andare incontro a dei bei problemi, quindi non sarà magari in condizione di essere così autoritario come spera di poter continuare ad essere. Ma questo è un discorso proprio solo politico che esula dalle considerazioni che facevamo questa sera. Però di giovani non si parla mai. Dei? Di giovani, di politica giovanile, di spazi liberi. No, ma no, cosa vuoi? Perché non ci sono solo, non c'è solo l'autogestione del mulino Lex Macello, ci sono tutta un'altra serie di realtà che potrebbero germinare, giustamente di parlare anche di terreno fertile, no? Ecco, che non trova spazio, no? Perché l'altro grosso tema che non funziona è la politica del quartiere, abbiamo avuto delle delegazioni, la città è molto grande, ma quello che c'era di buono negli ex comuni è difficile valorizzarlo, no? Ecco, perché è così. Comunque è anche interessante ricordarci che quello studio che è venuto fuori, che è pubblicato proprio adesso, non a caso probabilmente, su quanto produce di prodotto interno lordo la cultura, era nato per un'affermazione che era stata fatta ai tempi in cui si costruiva il l'arte, che con la cultura non si mangia. Quindi, sappiamo intanto che tanto si mangia. Adesso ci ha risposto che anche si mangia. Comunque la partenza culturale era stata quella lì. Se posso permettermi, no? Faccio una piccola premessa, ragione nel mio che parlo, quindi spero di avere un senso più compiuto alla fine. Ma quando a sentirvi anche adesso parlare, mi sono mancata un paio di parole, sia prima di quello che avete detto voi, ma anche da quello che è stato detto adesso. E parto da ordine pubblico e da solitudine che poi veniva citata. Questo anche per dire che quando si parla di politiche giovanili, strettamente qui a parlare o ad accennare il discorso, non sono mai dei giovani, o più o meno giovani, no? Sono sempre altre persone, e quando poi i giovani si mobilitano, io ricordo perfettamente questa scena in Piazza Riforma, e i giovani che scendono in piazza e uno di loro che si becca una mano sulla spalla da parte del sindaco della serie, vabbè, ma le cose sono più complicate di così. Grazie, no, ecco. E quando si cita ordine pubblico e solitudine, allora io andrei anche un attimo indietro, nel senso che è un problema culturale, ma che ritroviamo non qui, non solo qui, ma che ritroviamo in un certo tipo di società di cui facciamo parte, molto, va molto più al di là di Lugano, del Ticino e della Svizzera, ma siamo una società che è stata resa sola, e quando si parla di eventi culturali, che poi appunto solitamente sono l'aperitivo del vernissage, dove a fare più domande su quello che viene esposto, che sia una poesia raccontata o una fotografia, un quadro, non è che se ne viene a casa con molto, no? C'è proprio questa necessità di rendere sola la persona che quindi diventa attenta all'ordine pubblico, perché si sente in pausa nella propria solitudine. La propria solitudine è un posto in cui fondamentalmente si trova anche bene, no? Con tutto il casino della società di oggi, quando io chiudo la porta di casa, penso, no, di stare bene, quindi l'ordine pubblico diventa importantissimo per me. Di conseguenza non vado ad approfondire il discorso dell'autogestione, di conseguenza non vado ad accettarlo, perché è una cosa che al momento sta minando. Ma è veramente un discorso che dobbiamo, e qui mi dispiace veramente sempre vedere il limite che c'è nelle persone che affrontano questi temi. Dobbiamo veramente tornare tanto indietro, nel senso che è stata costruita una società e una cultura che ha isolato. È bellissimo andare a vedere certe mostre, ma non viene fatta cultura, perché non c'è voglia di fare cultura. Cultura è divulgazione, cultura è mettere una persona davanti ai propri limiti, ma non ci si arriva da soli, no? Ci deve essere uno scambio per arrivare, per essere messo davanti al proprio limite, perché il mio limite è qui, e magari tu parlando scopro che il mio limite è al tavolino, e non lo sapevo, no? Ma è dal confronto. E oggi non si ha più voglia e tempo di avere un confronto, di fare cultura, perché è diventato impegnativo. È diventato impegnativo per il cittadino che ha ben altro a cui pensare, quindi torniamo al problema della società. È diventato un problema da parte anche magari di cultura, ogni tanto cerca di farlo, perché si sente isolato, solo, e non c'è sempre chi ha la forza di mettersi poi in cerchio e di avere un confronto. Quindi secondo me è un problema che va molto più al di là, e questa è una parte. Poi c'è il problema del forse nei confronti del cittadino, non per attivare la discussione sinistra, però anche sempre non rendere partecipe il cittadino con un'informazione precisa e puntuale su quello che sta succedendo, rende il cittadino meno predisposto a informarsi e quindi a cercare la cultura, perché l'informazione, che sia poesia, che sia quello che è successo dall'altra parte del mondo, è cultura, no? Però c'è sempre questa cosa che non è necessario, c'è un corso là, non è necessario che io ne parli, ne parlerò fra 4 mesi e vabbè. E quindi io trovo che sia un problema strutturale della società, ma che è stata costruita così, quindi hai voglia di andare indietro per cercare di capire, non è tanto l'uovo, è dove abbiamo perso la voglia di fare tutto, secondo me. Se mi chiedo, Andrea o Laura, voi siete anche insegnanti, se ne parlava prima fuori in cortile, te giustamente parlava anche dei giovani, anche in questo caso sarebbero i docenti, gli insegnanti che parlano dei giovani, però c'è, sentite questo problema, nel senso forse c'è da parte dei ragazzi, delle ragazze che frequentate, la curiosità, l'interesse verso la cultura, verso magari anche una cultura indipendente, nel senso appunto al di fuori da questi canali ufficiali, o siamo in una fase dell'epoca, in un'epoca in cui manca un po' questa spinta anche da parte loro, perché per le ragioni che Mattia mi sembra sia riconosco di trovare che viene in penombra, evidenzia, sottolineava. Non so se posso. No, io sono d'accordissimo, infatti mi viene in mente questo libro, La dittatura dell'ignoranza, che ha scritto questo poeta che purtroppo è scomparso di recente e con cui io ho lavorato, ho avuto la fortuna di lavorare a lungo. Lui veniva dagli anni 70, quindi da tutte delle discussioni sul tema della cultura, anche delle messe in discussione del movimento della contestazione che voleva fare fuori un po' la cultura perché sentita come appunto autoritaria, eccetera. Quindi è una persona che ha riflettuto veramente tanto sul tema, fondando delle riviste importanti e con contributi. Ecco, adesso c'è una mosca che mi sta prendendo, ecco, l'estraneo, ecco, sì. L'altro, la verità. E quindi lui ha scritto La dittatura dell'ignoranza, perché diceva l'ignoranza non è più qualcosa di cui quasi vergognarsi, a cui porre, diciamo, una lacuna a cui porre da riempire, no, viene trasformata in qualcosa di cui farsi forti, no? Ma è chiaro, dopo 30 anni di TV berlusconiane, come viene presentato l'intellettuale? Qui noi siamo in area, cioè è un territorio che comunque si rifà anche alle TV berlusconiane. Come viene presentato l'intellettuale? Sinceramente come un vecchio trombone sfigato, scusate il termine, da mettere da parte. Ma è chiaro che c'è un disegno dietro questo. C'è un disegno, non è fatto così tanto per, c'è un disegno, perché evidentemente si è capito che la cultura dava fastidio in qualche modo, quindi tutta l'area, diciamo, che va verso una società più liberale, più capitalistica, la cultura tende o a metterla da parte o a alleggerirla perché viene sentita come un nemico da combattere. E quindi paradossalmente chi ne avrebbe più bisogno ha introiettato questa visione delle cose dopo anni e anni di bombardamento di queste cavolate, soprattutto con le TV, ma anche con il cinema, e quindi si fa forte di questa cosa, senza sapere di essere un po' diretto quasi come un burattino, ecco, da questo punto di vista. Questa è la mia visione, magari un po' estremista, però ecco. È vero che c'è questo humus culturale, è vero che per la mia modesta esperienza quando parlo con gli studenti, ecco, non ho parlato di scusa, le tracce che si vedono, oltre al fatto di essere immersi in un mondo che è dominato, diciamo, dai rapporti di produzione, dall'efficienza, anche da alcune modalità di comunicazione digitale, sarà una banalità dirlo, ma è così, che inneggiano al proliferare dell'uguale, perché se togli l'altro cosa resta? L'uguale, chi è uguale a noi? E alla fine è comunque meglio avere un altro fastidioso, un altro magari ignorante, un altro impresentabile che l'uguale, perché l'uguale è l'inferno. È chiaro, poi è difficile, non so, se prendiamo una cosa, magari può sembrare ovvia a tutti e tu dici a qualcuno non è ovvio, per esempio, restiamo nel campo del macello, che l'assurdità di quanto è successo, magari, forse, non so, magari qualcuno la pensa diversamente, ma qui più o meno penso che sia ovvio a tutti, cioè più o meno tutti pensano che sia una cosa assurda, no? Credo. Se qui ci fosse una persona che dice no, secondo me è stato un intervento giusto da parte dell'autorità, che fai? Io capisco l'angoscia, dici come fa? Cioè, e non voglio sentire ragioni, ti dice, ma che diavolo, la penso così e basta, per fortuna, basta, via. E cosa fai? Può generare angoscia, però non lo puoi sopprimere, ce l'hai lì, e quindi o tenti oltremodo di dialogare o la possibilità della lotta. Il problema è che la lotta è sì fino a un certo punto, ma poi ci sono lotte tali per cui entrambi i contendenti vengono distrutti. È come chi per lottare contro il terrorismo lotta contro l'Islam, cioè alla fine ci facciamo una guerra mondiale, ci distruggiamo tutti. No, ecco. Secondo me appunto c'è da lottare in alcuni momenti, ma c'è anche, e io stesso sono il primo che magari mi innervosirei, io non farei, quindi oltretutto non avrei mai la capacità di fare politica probabilmente per questo, no? Di mettersi lì e dire beh, provo a vedere le cose come le vedi tu, anche se è completamente, anche se considero che è grottesco il modo in cui tu vedi le cose, ci provo. Poi il dialogo viene rifiutato a oltranza, c'è la speranza che prima o poi, in un caso su 100, invece, restando la differenza, perché non è che io voglio, non voglio uguale, restando la differenza, qualcuno prima o poi lo colga quel dialogo, una volta. È una vittoria di fronte a 100 sconfitte, però. Posso dire soltanto una cosa velocemente sulla lotta, nel senso che lotta per me è il ribadire costantemente quanto ci diciamo oggi anche fuori, nel senso che per me lotta è il fatto che non si può zittire una cosa. Magari si è tentato di farlo, si è tentato di trovare vari espedienti per arginarlo, per metterci sopra una bolla o una campana di vetro, ma a un certo punto lotta è il fatto che noi primis, noi parlo di persone che anche amano la cultura, che agiscono in ambito culturale, forse sono stati anche molto. Abbiamo contribuito in questi ultimi 30 anni, di mattino a domenica, per fare un esempio molto concreto, in questi anni di omertà in Ticino, che è molto provinciale, in cui tutti si conoscono, abbiamo anche in qualche modo contribuito. Perché? Perché come diceva Laura prima, a un certo punto io devo stare attento, perché comunque vivo grazie a quella sovvenzione, oppure quello conosce quello, allora io sto attento a non dire quello che penso veramente fino in fondo. Siamo arrivati a una misura che colma, e quindi la lotta, a mio modo di vedere, deve essere anche quella di ribadire, di non accettare più, di non accettare che la cultura venga scritta la domenica con la cappa, di non accettare che qualcuno possa dire cosa giusto o cosa sbagliato in ambito di creazione, di non accettare che venga buttato giù un luogo, anche simbolico, ma anche un luogo dove le persone vivono, come lo stabile abitativo dell'ex macello, di non accettare varie cose. Cioè, lotta è inteso, secondo me, come il dover rimettere, e in questo modo di conoscenza, di informazione, poi forse potremo in qualche modo andare nella direzione auspicata dalla signora Gonzaga, e forse riusciremo a far capire a una grandissima fetta della popolazione che sta a centro, che magari è ignara perché è stata anestetizzata per tanti anni, ah no, così non funzionava, così era sbagliato. Questo che quello che è successo un mese fa ha risvegliato tante persone, perché tante persone hanno detto aspetta, no, ma allora c'è qualcosa che non funziona, forse la persona non si era mai posta la domanda. Perché? Perché è un po' chiuso nel loro individualismo, per cui l'ordine pubblico è diventato l'ordine di casa mia. Anche i giovani li abbiamo persi un po' per strada, ma l'idea è proprio che appunto spesso ancora più. Un giovane tende naturalmente comunque a questa divisione che tu dicevi in buoni e cattivi a una certa fase della propria vita, e in fondo questo può essere, almeno per me, a volte la presa di posizione appassionata dei giovani in ambo i campi è come dire una spinta a dire no, non devi addormentare tutto, cioè la forza anche qui del confronto, della differenza. Dopo è chiaro che comunque la questione di certe modalità di efficienza di comunicazione digitale fa sì che la spaccatura in buoni e cattivi è una cosa che spesso si ravvisa particolarmente nei giovani. Allora, come educatori, io quello che cerco di fare è insegnare ai giovani che siamo tutti cattivi per un motivo o per l'altro, e quindi di conseguenza anche tutti buoni quando sappiamo dare il meglio di noi. Laura, forse volevi aggiungere qualcosa? Per parlare dei giovani, penso che il grande problema in questo momento dei giovani venga dal fatto di non riuscire a concentrarsi per più di 2 minuti su una cosa, che ovviamente anche qui è strutturale, perché cioè, secondo me è un po' così limitato pensare che questi nuovi mezzi non ci cambino, cioè il nuovo mezzo, ma noi eravamo veramente così, no, i mezzi cambiano, le persone non sono delle monadi, cioè diventano delle cose in base alle esperienze che fanno, quindi questi nuovi mezzi tendono a sbriciolare la capacità di concentrarsi e quindi la cultura è importante sapersi concentrare, quindi quello che io vedo nella mia esperienza è che quando gli porti delle cose importanti e gli fai capire, rimangono colpiti, ecco, quindi ci sono delle, però che facciano fatica a rimanere concentrati a lungo su un testo, su un problema, e che quindi abbiano bisogno di stimoli continui, cosa che secondo me gli rende anche la vita più difficile, perché diventano meno felici, più nervosi, più inquieti. Questo è un aspetto. E poi l'altro aspetto è quello che diceva Nicolò della lotta. Io sono d'accordo che a un certo punto se si mettono in crisi, se ci sono delle cose importantissime che vengono messe in discussione, sono in pericolo, bisogna anche rispondere. Non sono troppo, diciamo, tollerante da questo punto di vista. Credo che ci sia il momento in cui bisogna dire di no, e sono contenta di vedere che in Ticino, sia per quanto riguarda la Rete 2 che per quanto riguarda il Mulino, ci sia stato un gruppo di persone che ha preso posizione in modo collettivo, è stato molto bello questo, e questo secondo me sta creando delle basi, e sono sicura che tutto questo abbia anche a che fare con lo sciopero femminile che c'è stato 2 anni fa, che è stato un momento molto importante secondo me per il nostro cantone. Quindi non sarei così pessimista, perché vedo anche delle forze propulsive interessanti, e l'uscire dalla propria solitudine e il condividerle. Quindi il poterle mettere in un discorso comune, come stiamo facendo questa sera, e questo secondo me è qualcosa di nuovo, in un cantone che mi è sempre parso addormentato, appunto, di fronte a delle palesi ingiustizie, eccetera, vedo qualcosa di diverso. Secondo me ha a che fare con la battaglia femminile, che è una battaglia di tutti, come dice Michela Murgia, non è una battaglia, cioè io non lo faccio contro di te, brutto scemo, dice, io lo faccio anche per te, perché una persona deve volere la giustizia per tutti, non può pensare che la giustizia sia solo per una metà del genere umano o per noi che facciamo parte della Svizzera. È la giustizia, se uno vuole la giustizia e l'equità, la deve volere per tutti e per tutte. Forse non so se ci sono altri interventi, perché altrimenti devo dire le parole di Laura sono in qualche modo anche conclusive. Forse una riflessione che si può fare è che l'evento per cui, insomma, che ha dato lo stimolo per questa serata, che è stato un evento sicuramente distruttivo in termini fisici, perché hanno buttato giù un edificio culturale, sede culturale, ma anche un edificio abitativo, e in termini simbolici, non solo perché era un edificio simbolo, ma proprio per il simbolismo di quella distruzione, beh, forse se non altro si può dire che qualche effetto collaterale positivo, creativo, forse da quell'evento può nascere. E sono dibattiti come quello di questa sera, come altri dibattiti che si sono tenuti nei giorni scorsi, come la manifestazione che c'è stata, e quindi io innanzitutto ringrazio anche questo Martinelli, cerchio, il cerchio, infatti ringrazio Maurizio Cerri per l'idea del cerchio, che è stato che ci ha aiutato, credo, anche a un confronto più diretto, più spontaneo anche. Pietro Martinelli, Nicolo Castelli, Laura Di Corcia e Andrea Fazzioli per aver condiviso con noi questi e le loro riflessioni. Ringrazio tutti voi per aver speso questa fosa serata di un lunedì di fine giugno qui a discutere, a interrogarci e a cercare delle soluzioni, e beh, speriamo che questi, che incontri come questi effetti collaterali, insomma, diano dei frutti positivi e creativi. Grazie allora a tutti. Grazie.